Con Simone Bozzato, coautore del libro del viaggio lento e della mobilità sostenibile, che sarà presentato al meeting All Roads Lead to Rome il 24 novembre. Simone, ben trovato. Buongiorno. Presentiamo questo libro, ce ne parli un po'? Ma sì, il viaggio lento della mobilità sostenibile è un libro che abbiamo definito libro bianco, nel senso che all'interno di questo pamphlet sono raccolti, che condivido naturalmente con i colleghi Massimo Ceschin e Gaia Ferrara, sono raccolti anni di lavoro sul tema degli itinerari culturali. In particolare vuole essere un momento di sintesi delle attività raccolte negli anni nella piattaforma che abbiamo creato per Roots Lead to Rome, che anche quest'anno, proprio il 24, diciamo, si avvia alle conclusioni, ha visto una grandissima partecipazione di persone e di stakeholder che operano nel settore, ma è anche un po' un punto di riflessione di una board che poi è stato il riferimento di pensiero intorno al quale sono nate queste attività e che ha visto la partecipazione anche qui di tanti tavoli delle competenze nei quali sono emerse difficoltà, esigenze, punti di chiarimento, riferimenti anche lessicali sul tema degli itinerari culturali, per cercare di rendere sempre di più questo fenomeno di turismo sostenibile, concreto, un'azione formale ormai, che può veramente permettere elementi di sviluppo rilevanti all'interno dei nostri territori, in particolare in quelle realtà minore nei territori, nelle aree interne, nei territori più deboli sotto il profilo della frammentarietà territoriale, in quelle dinamiche di borgo che in Italia sono così importanti e che hanno poi conformato la situazione geografica e territoriale e paesaggistica del nostro paese, gli itinerari divengono un elemento molto importante in termini di valorizzazione perché mettono insieme tante diverse esperienze, tante opportunità, tanti patrimoni. Questo libro ne ha voluto fare una sintesi ragionata, ma non andando a parlare del singolo itinerario, della singola esperienza, ma cercando di rendere tutto questo riferimento importante per gli operatori, cioè dare degli strumenti all'interno, ad esempio, dell'opportunità di scrivere una legge regionale, ben sapendo che cos'è un itinerario culturale, cos'è un tracciato, cos'è un cammino, o ancora andando a definire delle opportunità di sviluppo attraverso un modello di sviluppo che può essere applicato in alcuni contesti, evidentemente territorializzandola nelle regionali, o ancora dare gli strumenti di lettura di fenomeni di trasformazione paesaggistica attraverso gli itinerari. E poi anche andando a definire quelli che possono essere degli strumenti di governance intorno ai quali far crescere l'itinerario, non renderlo più una bella opportunità, ma uno strumento attuativo, formalizzato, intorno al quale le piccole e medie imprese si riconoscono, intorno al quale questi aggregati, che alle volte vedono distante il sistema regionale e troppo presente il sistema comunale, possono ritrovarsi all'interno di quegli enti intermedi, come i parchi culturali ecclesiali, per dare un esempio attuato all'EUCA, o in altre realtà, i CAL o altro, creare quindi le progettualità dentro a questi sistemi che permettono di dar vita a un prodotto definito sotto il tema degli itinerari culturali. Quindi quello che rilevo importante nel nostro paese in termini di come ad esempio la Francigena o come potrebbe essere l'app in termini di azioni di sviluppo, partendo anche dai tavoli delle competenze nazionali sui quali molte risorse sono state indirizzate e diverranno elementi fondamentali per strutturare i territori, deve trovare dei riferimenti di governance. Questo libro vuole cogliere queste caratteristiche. Simone, qual è l'identikit di un itinerario per un cammino ottimale? Ma è una domanda da $1 milione. Intanto bisogna vedere itinerario per itinerario. Noi da sempre abbiamo creato, o meglio, guardiamo la dimensione estera sempre come un riferimento, no? Cercando alle volte di portare in Italia delle esperienze che all'estero sono state di successo. Faccio riferimento chiaramente a Santiago di Compostela. Santiago di Compostela, secondo me, è sicuramente un elemento che va visto con attenzione, ha profili di governance anche molto interessanti, ha creato delle opportunità forti in termini di sviluppo, ma in un contesto territoriale che ha caratteristiche profondamente differenti dalle nostre. E l'Italia, nel nostro paese, la dimensione dell'itinerario diventa lo specchio alle volte di una differenziazione forte tra una collina e un'altra, tra una identità e un'altra. quindi è difficile capire, dire questa è la situazione modello da esportare o da riportare all'interno del nostro contesto. Io non credo che il modello Santiago sia un modello ad esempio applicabile alla nostra realtà. Mi piace molto però vedere quello che sta avvenendo ad esempio all'interno del tavolo Appia, tavolo del Ministero dei Beni Culturali, dove è stato fatto un grande investimento che sta finalmente portando a una equa ripartizione di queste risorse tra le regioni, in una logica però di progetto, cioè dentro la quale si è ben compreso all'interno delle singole regioni cosa serva per creare l'itinerario. Un itinerario come quello dell'Appia, peraltro un itinerario che mette insieme una bella sezione di Sud Italia, quindi entra perfettamente all'interno dei problemi del giorno, di tentativo di recuperare delle attenzione al nostro meridione, diventa lo specchio di alcune regioni che stanno lavorando in modo molto attento sui temi del turismo sostenibile, perché hanno compreso che la partita del turismo di massa è non terminata, ma non è certo modello da applicare ai contesti regionali. E allora come destagionalizzare il turismo nel Sud Italia? Come creare condizioni affinché forme nuove di turismo nascano? Come provare a far sì che ci siano forme solide che vadano contro quella frammentarietà territoriale che è un danno profondo all'interno del nostro paese? Allora, ad esempio, l'Appia può essere un modello molto importante, anche perché ha un brand internazionale riconosciuto da tutti e forse alle volte più noto delle singole realtà che sono attraversate dall'itinerario, sicuramente figlio di un meccanismo storico direttamente rilevabile. È ancora interessante l'innesto di alcuni itinerari che possono esserci sull'Appia, cioè come l'Appia può diventare l'attrattore principale sul quale nascono esperienze. Ecco, in quel caso entrare nel dettaglio territoriale delle esigenze di quei territori, dei diversi territori, provando a creare delle cabine nazionali e regionali, ma poi avendo degli enti applicativi che operano sulla governance dei singoli territori e che mettono insieme il sistema locale, e questa è una strada molto interessante, mi pare che l'Appia sia un riferimento importante sotto questo punto di vista. In chiusura, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sul libro? Ma il libro intanto è edito da Exorma e quindi si può acquistare appunto attraverso un piccolo editore che ha creduto in questa esperienza importante e che quindi merita il plauso almeno da parte nostra per quanto riguarda questa operazione. Il libro è consultabile su tutti i grandi, è acquistabile comunque su tutti i riferimenti online possibili, naturalmente anche sul sito di Exorma, ed è visibile anche direttamente sul sito di Orvus.com, quindi sono vari riferimenti dove si può trovare. Ci farà però piacere poter incontrare le persone che hanno voglia di conoscere questa esperienza direttamente il 24. Bene, e allora ricordaci l'appuntamento, il luogo e gli orari. Allora il 24 all'interno del meeting degli itinerari culturali delle rotte, dei cammini e delle ciclovie, sabato 24 novembre alle ore 10, Università di Roma Tor Vergata, via Columbia 1, Aula Moscati, inizierà questa attività che andrà avanti tutto il giorno, che poggerà progressivamente sui capitoli del libro e sulle attività costruite attraverso il libro. Ricordiamo allora il libro del Viaggio Lento e della Mobilità Sostenibile. Un saluto e un ringraziamento al coautore Simone Bozzato. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, grazie a voi.